non ho più rispetto di chi mi sa lasciare idee e poi ne fa sue e mi sminuisce il fronte al mondo. Stavi non volevo cambiare e non mi voglio plagiare, spero solo di farmi capire che dai miei regimi pagano da mini, dai miei regimi pagano da mini, dai miei regimi pagano da me. Segnano confini e non li vorrei, non apprezzo gli stili, studiati e rivangati, studiati e rivangati, studiati e rivangati. Questo disgusto non riflettuto, guarda le note, non solo certe doni. Non ti fissare i suoi ideali prodotti artificialmente. Ora cammina nel margine e guarda tutto quel che puoi vedere. E non avere disgusto dei colori mai visti, mettili tra i tuoi, ma non cambiare i tuoi colori preferiti. Non cambiarli mai. Non cambiare, non cambiare, non cambiare mai, non cambiare mai, non cambiare, non cambiare mai, non cambiare mai. Prendi tutti i colori che puoi, mettili tra i tuoi, ma non cambiare, non cambiare, non cambiare mai, non cambiare, non cambiare mai.